in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come abbiamo fatto tutta questa settimana dal Sole 24 Ore, che fa il bilancio di questa settimana in borsa e soprattutto delle mosse di ieri del governo cinese. Il titolo scelto dal Sole 24 Ore è: la Cina usa il bazooka, Shanghai sale del 4,8%. Bazooka finanziario naturalmente, perché si sta delineando, spiega il Sole 24 Ore, la via cinese al quantitative easing, cioè alla politica monetaria che dovrebbe aiutare aiutare a disinnescare la bomba della bolla speculativa cinese, che ha fatto calare la borsa cinese, che a sua volta è legata, come abbiamo detto più volte, al rallentamento dell'economia reale, che comunque continua a crescere in Cina del 7%. Dopo il calo dei tassi e swap sui debiti locali, ricorderete ieri l'analisi di Rita Fatiguso proprio su questo e il giorno prima le analisi sul quantitative easing, acquisto di azioni da parte dei fondi pensione. Oggi l'editoriale è affidato a Alberto Quadrio Curzio, l'economista Alberto Quadrio Curzio, la doppia terapia per la Cina e Europa. Quindi anche ieri c'era stato questo suggerimento di guardare, anche di cercare di imparare una lezione da quello che sta succedendo in Cina anche per l'Europa, per le politiche economiche e monetarie in particolare cinesi. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche l'articolo di Nicoletta Picchio, che racconta l'intervento di ieri di Giorgio Squinzi alla Festa dell'Unità, con, avete sentito anche nel GR, sia tutte le questioni che ha toccato, e in particolare il Sole 24 Ore ha scelto il virgolettato su una delle questioni che per noi è una delle più sensibili, cioè la riduzione, e per Confindustria, che lo ricordiamo è l'editore di questo giornale, ma è per la Confindustria, cioè il taglio delle tasse. Quindi Squinzi, tifo spietato per chi riduce le tasse, ma va anche tagliata la spesa. Squinzi ha parlato di tantissime cose, tra cui burocrazia, ruolo dei sindacati, che lui ha considerato negativo, ha considerato un freno nello sviluppo dell'Italia. Trovate il reportage sul nostro giornale, ma anche su tutti gli altri, a pagina 7 di Nicoletta Picchio. Per quanto riguarda la legge di stabilità, che tutti aspettiamo perché definirà molte cose, ma prenderà forma al ritorno di tutti i parlamentari dalle loro vacanze, quando il governo se ne occuperà a tempo pieno, ci sono due gli argomenti che il Sole 24 Ore cerca già di anticipare. Uno riguarda quello sugli investimenti, di cui si è parlato anche ieri. Ci dovrebbe essere questo bonus da 2,6 miliardi per potenziarli. E per quanto riguarda la famosa partita sulle tasse sulla casa, quindi la tasi e tagli, c'è una quella che il Sole 24 Ore, con un articolo di Marco Rogari a pagina 6, definisce una partita da 6 miliardi con i comuni, perché la tassa sulle case è appunto quella, è la maggiore fonte di introiti per i comuni. Come ogni sabato in edicola con il Sole 24 Ore plus 24, che non si sono mai fermate le pubblicazioni in agosto neanche per un numero di questo supplemento, è il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, e come potevamo immaginare, insomma, questa settimana è dedicato a quello che viene definito il risparmio post trauma, cioè dopo l'eccesso di la grande volatilità che abbiamo visto sulle borse questa settimana e non solo. E quindi il tema principale di Plus è: borsa in tempesta, l'eccesso di volatilità ha messo a nudo i rischi occulti dei portafogli, ecco come organizzarsi per riprendersi dallo shock. La prima pagina del Corriere della Sera è invece dedicata da una parte alle questioni economiche, con quella che potrebbe essere una legge salva regioni. Abbiamo visto nei giorni scorsi come la Corte di Cassazione ha bocciato i bilanci di alcune regioni, in particolare il Piemonte, per l'utilizzo di alcuni fondi, e ora c'è un testo di Palazzo Chigi che dovrebbe allentare un pochino i vincoli di bilancio, perché c'è un rischio di buco miliardario. I record in questo caso vanno a Lazio, Piemonte, Campania e Veneto, e trovate tutti i dettagli a pagina 10 del Sole, del Corriere della Sera, che però ha anche un titolo subito sotto la testata. Quindi il titolo principale resta questo, quello sui debiti delle regioni, però grande spazio anche alla questione dei migranti. Nel reportage di Francesco Battistini e Maria Serena Natale, oltre 5 milioni di siriani pronti a partire, il grande esodo, e poi 200 corpi in mare di ieri, dell'altro ieri la notizia del TIR trovato in Austria con 71 cadaveri di migranti, e ieri invece 200 corpi in mare al largo della Libia. Tra l'altro alla pagina 3 del Corriere della Sera trovate un'infografica, forse la più chiara che ho visto in questi giorni, a dire il vero ce n'è una anche oggi sul Sole 24 Ore, però questa diciamo che si allarga un po' a più paesi, a tutti i corridoi, non solo quelli del mare, quindi la mappa e i numeri di tutti i migranti, quelli che vanno verso la Grecia, quelli che vanno verso l'Ungheria, verso l'Italia e verso la Spagna, che in realtà sembrerebbe in questo momento il flusso minore, tant'è che appunto secondo le stime vale 6.698 persone, verso l'Italia 91.302, verso la Grecia 132.240, verso l'Ungheria 102.342, per un totale di 332.582 migranti nel periodo gennaio-luglio. Un reportage anche particolare a pagina 5 del Corriere della Sera di Alessandra Coppola e Andrea Galli, che sono andati in Germania a testimoniare l'arrivo di quella famiglia, forse lo ricorderete, di quella famiglia straziata dalla perdita della figlia di 11 anni e che era diabetica, e i suoi farmaci erano stati gettati in mare dagli scafisti e la bambina poi, Ragad Assun, era morta. Suo padre Mohamed Assun, che è un siriano, viene da Aleppo, è riuscito ad arrivare in Germania. E appunto adesso i due giornalisti del Corriere ci raccontano Bimba dell'insulina, la nuova vita della famiglia riunita. Anche la Repubblica titola su quella che viene definita la strage senza fine dei migranti, con un'intervista al ministro Gentiloni, il ministro degli esteri, che dice adesso l'Europa veramente sa e non può far finta di sapere, tant'è che probabilmente si va verso davvero nuove regole sul diritto d'asilo, sui rimpatri. Vi segnalo anche un'altra intervista, questa volta a Prodi, che a Capalbio ha ricevuto un premio. Prodi sta rilasciando molte interviste, molto, si vuole esporre, molto mediaticamente esposto in questi giorni su quelle questioni le più svariate, da quelle economiche a quelle sui migranti a quelle in questo caso strettamente di politica interna, tant'è che la Repubblica titola su Berlusconi e Renzi ha sbagliato, il riferimento è all'intervento di Matteo Renzi al meeting di CL con la famosa frase l'Italia è stata bloccata da 20 anni di berlusconismo da una parte, anti-berlusconismo dall'altra. Prodi, che fa parte a tutto diritto di quel ventennio, rivendica invece il suo ruolo non di immobilista, ma anzi di combattente attivo del berlusconismo, diciamo così. L'intervista la trovate a pagina 15. Vi segnalo sulla questione dei migranti un'intervista sempre su Repubblica, pagina 9, al sociologo polacco Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo, teorico della società liquida, ha creato lui questo termine, poi lo ha declinato in mille modi. Il titolo dell'intervista è «I migranti risvegliano le nostre paure, la politica non può rimanere cieca», e gli chiede Antonello Guerrera: «In Europa stanno tornando i muri, figli di uno spettro xenofobo che purtroppo sta dilagando». Risponde Bauman: sa chi mi ricordano quelli che li erigono? Il filosofo greco Diogene, che mentre i suoi vicini si preparavano a combattere contro Alessandro Magno, faceva rotolare la botte in cui viveva su e giù per le strade di Sinope, dicendo di non voler essere l'unico a non far niente. E lo incalza però Guerrera: è vero però che oggi il flusso migratorio verso l'Europa è di dimensioni mai viste. Qualche timore può essere giustificato, non trova? E Bauman risponde: oramai il nostro mondo è multiculturale, forse irreversibilmente, a causa di un'abnorme migrazione di idee, valori e credenze. E comunque la separazione fisica non assicura quella spirituale. Come ha scritto Ulrich Beck, lo straniero è per definizione un soggetto poco familiare, colpevole fino a prova contraria, e dunque per alcuni può rappresentare una minaccia. Nella nostra società liquida, flagellata dalla paura del fallimento e di perdere il proprio posto nella società, i migranti divengono walking dystopias, distopie che camminano. Ma in un'era di totale incertezza esistenziale, dove la vita è sempre più precaria, questa non è l'unica ragione delle paure che scatena la vista di ondate di sfollati fuori controllo. Vengono percepiti come messaggeri di cattive notizie, come scriveva Bertolt Brecht. E sicuramente un'interpretazione, potremmo dire, un po' poco pratica, molto teorica, però ci deve far riflettere, anche perché abbiamo paura, ci sono notizie, forse temiamo veramente di essere invasi, però forse dovremmo anche riflettere appunto sul significato più ampio di questa mescolanza di popoli dovuta alle migrazioni. Su questo poi c'è un bellissimo editoriale dell'Avvenire che spero di aver tempo di leggere. Il Messaggero invece titola su Roma, perché ha un'intervista in particolare al ministro degli interni Alfano, intitolata così: ora Marino collabori. Il sindaco non ha interesse a contrapporsi alle indicazioni di Gabrielli, c'è da risanare il comune, non c'è nulla di politico nella scelta e con fatti nuovi non staremo fermi. Il riferimento naturalmente è alla decisione di affidare al prefetto Gabrielli molti poteri straordinari, che in tanti hanno visto, hanno letto come un commissariamento di Marino. Intanto la notizia è che, e la trovate a pagina 3 del Messaggero, mentre tutta l'intervista Alfano è a pagina 2, che Marino è ancora in vacanza, no? Aveva annunciato che tornerà il 2 settembre, confermato che tornerà il 2 settembre, lunedì salterà la riunione sul Giubileo, lunedì in Campidoglio c'è una prima riunione sul Giubileo e Marino non sarà presente. La Stampa, migranti, la grande fuga dalla Libia, anche in questo caso quindi il titolo principale su questo. La fotonotizia invece viene dai mondiali di atletica di Pechino, perché ieri nei 200 metri ha trionfato un'atleta olandese bianca, e quindi il titolo: trionfa l'olandese, lo sprint non ha più colore, quindi si alternano vincitori appunto con la pelle bianca o con la pelle nera, e lo racconta Giulia Zonca a pagine 36 e 37. La prima pagina dell'Avvenire, vi dicevo, il titolo principale è Fermare l'orrore e i trafficanti, e l'editoriale di Marina Corradi, io l'ho trovato molto bello anche in questo caso, è proprio uno spunto di riflessione al di là delle paure, delle reazioni anche giustificate, soprattutto di chi magari vive molto vicino dove ci sono i centri di prima accoglienza. Quindi il titolo: per salvarli e salvarci, immaginiamoci migranti o loro genitori. Vi leggo la prima parte. Immaginatevi di lasciare che un vostro figlio ragazzo debba partire per un paese sconosciuto e lontano, di cui non conosce la lingua, dove arriverà senza un soldo e dove non lo aspetta nessuno. Immaginatevi di vederlo andar via con uno zaino in spalla, a piedi, o caricato su un bus male in arnese da trafficanti che stipano la gente a bordo come bestiame. Sapete poi che il ragazzo dovrà attraversare un tratto più o meno ampio di Mediterraneo, non su una nave, ma su un gommone gremito tanto che le sponde sfiorano l'acqua. E quanto sarà spaventoso e nero il mare di notte, senza una luce, ricordando poi in quante migliaia, sono morti su quella stessa rotta. E c'è poi, non c'è tempo magari di leggere tutto, comunque sulla prima pagina di Avvenire, questo era l'attacco, vi leggo la parte centrale. Fra il nostro mondo e l'altro da cui si fugge c'è in realtà come un immenso spesso muro da attraversare, irto di ogni pericolo e di morte. Non sappiamo da questa parte del Mediterraneo capire come si possa intraprendere un simile viaggio, per arrivare poi, da miserabili, in posti dove gli abitanti non ti vogliono o addirittura ti vorrebbero cacciare. Noi stentiamo a comprendere che per avventarsi contro al muro di Occidente bisogna avere dentro una spinta altrettanto potente e disperata, un out totale, come quei profughi siriani in marcia verso l'Ungheria che ai giornalisti che chiedono che ne è di Aleppo rispondono senza alzare la testa: Aleppo? Niente, voi non potete immaginare, chiuse le virgolette, voi non potete immaginare. Sì, soffriamo di un deficit di immaginazione, noi che comunque mangiamo, abbiamo un tetto e spesso un sacco di altre cose. Si può capire solo quando lo si prova sulla pelle che cosa deve significare far fuggire un figlio verso l'ignoto, nella speranza che almeno viva. Cercare di riconoscere il terrore e la miseria che spingono questa migrazione epocale non risolve, certo, i grandi problemi materiali che l'esodo in atto comporta, però serve almeno a restare o a diventare noi più umani, a non aprire spensieratamente la bocca per dire ciò che si legge sul web, dove nel segreto dell'anonimato qualcuno si compiace che ne muoiano in 100. Un altro aggiunge che questi credono che l'Europa sia il paese di Bengodi e tanti gli fanno eco, che quelli tornino a casa, cosa quest'ultima che insistono a ripetere, peraltro, anche alcuni politici. E la prima pagina dell'Unità è invece intitolata Mare Monstrum, anziché naturalmente Mare Nostrum, che è il modo in cui i latini, gli antichi romani indicavano il Mediterraneo. La tomba più grande del mondo è il Mediterraneo, in 25 anni 21.439 migranti annegati. E poi l'Unità, le pagine 2 e 3, ha un approfondimento con anche qui un approfondimento interessante sulle basi di quelli che vengono giustamente definiti nuovi schiavisti, e anche come tutti questi schiavisti e poi gli scafisti guadagnino cifre ingenti sulle quote chieste a tutti questi migranti per farli attraversare in qualche modo il Mediterraneo. Il titolo del manifesto: senza parole, ed è anche qui naturalmente riferito alla questione dei migranti. 71 morti asfissiati del TIR dell'altro ieri e, come abbiamo ricordato, le centinaia di morti nel Mar Libico ieri, stragi quotidiane che rischiano di essere digerite dall'informazione, da cui il titolo senza parole. Il manifesto, sempre critico con la sinistra ufficiale, il centro-sinistra di governo, aggiunge anche: e la sinistra non si muove. Anche Libero parla di immigrazione, ma con un taglio diverso. Ecco come l'Italia regala permessi ai clandestini. Per chi arriva senza documenti scatta la protezione umanitaria. Grazie a un cavillo, chiunque sia venuto in contatto con gli scafisti può ambire a un lasciapassare di 2 anni. Ci ritroviamo però subito dopo la pausa, in cui abbiamo anche le notizie sul meteo. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Una buona giornata da Paolo Corazzon di 3B Meteo e gli ascoltatori di Radio 24. Fine settimana estivo in tutta Italia grazie a una zona di alta pressione che fino a martedì prossimo garantirà tempo bello un po' dappertutto, ma favorirà anche un ulteriore lieve rialzo delle temperature. Le massime, che già stanno toccando valori al di sopra delle medie del periodo, potrebbero raggiungere i 35 gradi all'ombra e quindi al sole, e per effetto dell'umidità sulla pelle potremo sentire anche qualche grado in più. Le minime notturne invece, grazie anche al fatto che le giornate si stanno accorciando, si attesteranno su valori vicini alla media o solo leggermente al di sopra. Per finire vi segnalo un po' di vento dai quadranti settentrionali sul basso Adriatico e sull'alto Ionio, in particolare nel Salento in Puglia. Dalle altre parti venti deboli ma ricalmi o poco mossi. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati potete anche scaricare l'app gratuita di 3B Meteo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e vi segnalo quella del Il Giornale, che ha un titolo diverso da tutte le altre perché si ipotizza un Renzi bis, manovre di palazzo. Mattarella, Presidente della Repubblica, avrebbe pronto appunto questo nuovo governo Renzi. La spiegazione: il Premier non ha i numeri al Senato. Sapete che la prima prova al rientro del Parlamento sarà quando al Parlamento verrà sottoposta la riforma del Senato, per l'appunto la legge che di fatto riformerebbe la nostra Costituzione. E siccome il Presidente, secondo il giornale, Presidente Mattarella ha di fatto blindato il governo Renzi, il suo Premier, se cade lo rinomina, questa è l'ipotesi. Ma vi segnalo dalla prima pagina anche un articolo di Vittorio Feltri, di segno un po' opposto a quello che abbiamo letto sull'Avvenire. Il titolo è "Finire così, meglio la guerra", e Feltri fa a sua volta un ragionamento molto razionale, dicendo: sappiamo che la maggior parte dei migranti fuggono da situazioni tremende, però forse anche perché accettano rischi di rischiare la vita per arrivare in Europa, forse anche perché non hanno tutte le informazioni necessarie per capire quanto è disperata poi la loro situazione quando arrivano qui. Vi leggo la prima parte. Tutti noi, quando leggiamo certe notizie, trasaliamo e voltiamo pagina. 71 esseri umani morti in un tir suscitano orrore e ribellione. Ci domandiamo perché tanta gente sia pronta a lasciare il proprio paese per giungere in Europa, rischiando di fare la fine del topo, come spesso accade ai migranti. D'accordo, si tratta di persone disperate, forse perseguitate in patria, probabilmente disposte a rischiare la pelle nel modo che sappiamo, pur di avere anche solo la speranza di una vita normale. E poi però Feltri appunto conclude: spiegate ai clandestini che qui non è l'Eldorado, e le ultime parole in particolare sono molto dure, e sono queste: a distanza di secoli e secoli la storia si ripete, se rinunciamo a priori a batterci sarà fatale la sconfitta, rinunceremo anche a trattare la resa, saremo dominati, schiacciati, fatti a pezzi da musulmani e neri, non è lecito scrivere negri perché la mamma non vuole, vogliamo allegramente verso il nostro destino di imbelli e di buonisti stolti, più che dal paradiso siamo attesi da un coltello che ci taglierà la gola e la testa, la prospettiva non è attraente ma sarà inevitabile, signori cretini". Questo è oggi l'intervento di Vittorio Feltri sul Giornale. Torniamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore. Tra l'altro vi ricordo che oggi è in edicola anche l'Instant Book, che raccoglie tutte 40 le puntate della Guida al Sole, che ha toccato un po' tutti i temi che possono interessare le famiglie, dalla riforma della pubblica amministrazione alla riforma del lavoro alla scuola. E oggi appunto lo trovate, da oggi in poi, siccome è finita la pubblicazione sul giornale di due puntate al giorno, lo trovate in edicola raccolto in questo Instant Book. Per parlare di economia reale, la copertina di Imprese e Territori, un approfondimento sull'industria dell'acciaio, che in Italia l'Ilva era uno dei più, lo stabilimento italiano dell'Ilva era uno dei più importanti in Europa, si sta trasformando, sappiamo, anche per tutte le questioni giudiziarie in cui è coinvolto. Domenico Palmiotti da Taranto ci racconta: l'Ilva prova l'acciaio a basso impatto, l'introduzione della nuova tecnologia ridurrebbe la cosiddetta cockery e di conseguenza le emissioni, perché da sempre l'industria dell'acciaio è un'industria che ha un impatto sull'ambiente molto, molto importante. Vi segnalo anche dal Sole 24 Ore un approfondimento di Gerardo Pelosi sulla Mostra del Cinema di Venezia, vista da un punto di vista sempre molto Sole 24 Ore, molto economico. Il 2 settembre infatti si apre il Festival del Cinema di Venezia, se ne parlerà tantissimo anche qui a Radio 24, soprattutto per i film, però c'è anche finalmente la notizia che il Lido di Venezia si rifà il look per la mostra, cioè ci sono molte novità, dalla ZTL ai tornelli in Piazza San Marco. E poi, ci racconta Gerardo Pelosi, c'è un bando per un grande parco giochi vicino a Tessera, perché sono anni che si invocano interventi per rinnovare tutte le infrastrutture che ruotano intorno al Festival di Venezia, che si svolge ogni anno, ma che potrebbero poi anche servire comunque per arricchire tutti gli eventi delle biennali di Venezia, quindi quella di architettura e quella dell'arte, che invece si alternano. Dalle pagine interne della Stampa vi segnalo la nuova puntata della loro inchiesta Go USA Go, che ha anche questo hashtag, con Francesco Guerrera, che ha girato l'America e adesso dalla East Coast è arrivato alla West Coast, cioè in particolare in California, e racconta tutte le imprese più innovative che stanno cambiando un po' il volto dell'economia reale americana, soprattutto quella dei servizi. In questa puntata ci racconta la storia di Elizabeth Holmes, che ha inventato un nuovo modo di fare le analisi su internet, ha fondato la sua azienda a 19 anni, ora vale 10 miliardi, analisi mediche con un click, la rivoluzione di Elizabeth. Appunto, come il titolo di questa inchiesta è L'America sulla strada della ripresa, che naturalmente ha puntato molto questa ripresa americana sulla tecnologia, ma non solo, ha puntato soprattutto sull'unire la tecnologia alla manifattura vecchio stampo. Dal Messaggero trovate la notizia su tutti i giornali, però il Messaggero è quello che un po' la inquadra meglio, secondo me. Quel fatto di cronaca della donna di Catania che ha ucciso a bastonate il marito, in un primo tempo era stato denunciato questo delitto come una rapina, in realtà poi lei ha confessato, quindi il titolo: ma quali ladri, l'ho ammazzato io. E poi vi dicevo un po' l'approfondimento del Messaggero, che ci spiega quanti sono stati gli omicidi in famiglia dal 2005 al 2012. Sono calati, per esempio nel 2012, che è l'ultimo anno con i dati disponibili, e poi soprattutto ci spiega anche, li divide per area geografica, e poi spiega quando questi delitti vengono in un primo momento mascherati da rapine e poi in realtà si scopre che il killer era in famiglia. Dall'Avvenire un aggiornamento sulla questione delle armi negli Stati Uniti. Ieri era stato anche l'argomento della trasmissione Spunti di Vista, questa decisione di Walmart, la più grande catena al mondo di supermercati, di non vendere più armi, legata anche forse all'intervento di Obama, o comunque a molte voci critiche che si stanno levando negli Stati Uniti, che è il paese dove ci sono più armi pro capite per persona, per cittadini privati, ma soprattutto è il paese dove ci sono più stragi nelle scuole. Abbiamo la settimana scorsa la notizia di quella in una TV dove è entrato un ex dipendente, ha ucciso un giornalista e un cameraman che stavano lavorando. Ma ieri, tra l'altro, ci sono state altre due sparatorie, 3 nuove vittime in California e Georgia, quindi continua, nonostante tutti gli appelli a, a intervenire un po' sulla causa principale, che è la facilità con la quale si possono acquistare le armi negli Stati Uniti, appunto da Walmart, come se qui andando all'Esse Lunga o a Carrefour o da qualsiasi altra catena si potesse comprare anche un fucile d'assalto. Negli Stati Uniti è possibile, e quindi nonostante questo, appunto, nonostante questi appelli anche di Obama, appunto, a intervenire sulla facilità con cui si possono comprare le armi, continuano le stragi. Dalle pagine interne poi vi segnalo dal Fatto Quotidiano che oggi inizia la sua, l'equivalente, diciamo, della festa dell'unità o di altre feste. Se mi ascoltano forse mi malediranno perché non si sentono un partito, però insomma il Fatto Speciale ha la sua festa annuale, quest'anno sarà vicino a Roma, e verranno anche fatte ascoltare ai partecipanti le intercettazioni disponibili sull'inchiesta Mafia Capitale, e qui vengono anticipate. Quindi stasera, per chi sarà a Castel Sant'Angelo alla festa del Fatto, c'è la lettura pubblica, appunto, di questa inchiesta cosiddetta Mondo di Mezzo, che però secondo il Fatto il governo ha già dimenticato. E quindi sul Fatto, da pagina 5 a pagina 7, un po' un'anticipazione, appunto, per chi stasera non interverrà o non avrebbe comunque voluto intervenire alla festa del Fatto. Però comunque insomma, in questo c'è del vero, cioè nel fatto che è passata questa inchiesta dall'essere su tutte le prime pagine dei giornali, nelle pagine interne, all'essere quasi scomparsa. Per concludere, magari vi segnalo qualcosa di un pochino più leggero. Dalle pagine del Corriere della Sera, un'intervista a Stefano Pilati, che è lo stilista di Zegna, che racconta soprattutto da dove trae l'ispirazione, che è forse un po' tutto con una curiosità che tutti abbiamo, cioè da dove vengono le idee agli stilisti, ma anche a tanti altri creativi. E la risposta, il titolo dell'intervista di Paolo Apollo è: il mio guardaroba è in realtà il mio archivio. Quindi il ruolo veramente dei gusti personali quando uno stilista deve disegnare anche, appunto, per un marchio che poi è in realtà un target amplissimo come Zegna. Un'altra bella intervista su Repubblica all'attore francese Vincent Lindon: il cinema credo che possa cambiare il mondo, anche se lui definisce la sua, anzi forse per questo l'attore definisce la sua vita una vita da ribelle. Sulle pagine di stile della Stampa, anche qui sempre un po' per alleggerire, il titolo Mamma come siamo di moda, e c'è un po' la Stampa ripercorre tutte le campagne pubblicitarie partendo dalla più recente, che è quella di Charlotte Gainsbourg con la figlia, che ha 34 anni, la figlia ne ha 13, Charlotte ne ha 34, fanno una campagna insieme per un marchio Comptoir de Cotonier, che è di proprietà in realtà di un colosso giapponese, lo stesso che possiede Uniqlo. Ma ci sono stati anche precedenti, come la modella Jerry Hall, ex moglie di Mick Jagger, con la figlia George May. Insomma, quando mamma e figlia si prestano anche, forse si divertono anche, almeno questo lascia intuire la Stampa, si prestano a campagne pubblicitarie per la moda in particolare. L'ultimissima segnalazione da macro del Messaggero: trovato l'oro dei nazisti. Trovate la notizia anche su altri giornali. Comunque è legata al fatto che la Polonia ieri ha annunciato di aver individuato quasi certamente il treno blindato in cui i tedeschi nascosero lingotti o opere d'arte verso la fine della guerra. Era l'ultima segnalazione per oggi, ora le notizie sul traffico, poi ci ritroviamo per la parte europea della rassegna stampa.